wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Ricordandovi subito che l'indirizzo di posta elettronica per inviare la vostra corrispondenza è soundcheck@radio24.it, che nelle pagine del sito di Radio 24 troverete anche la possibilità di poter riascoltare la nostra musica attraverso il podcast. Diamo il via alla puntata numero 135 della prova del suono di Radio 24, presentandovi oggi tanta musica, quindi meno parole ma tanta musica, spaziando nel repertorio del pop di classe. Sì, c'è pop e pop, e il pop che vi vogliamo presentare oggi è quello raffinato, quello che per esempio ci viene proposto da due artisti contemporanei di riferimento per quel che riguarda la black music di oggi, ma con una venatura assolutamente pop, e sono Aloe Black e Anthony Hamilton, due signori che hanno un comune denominatore, ovvero la passione per Bill Withers, songwriter che abbiamo celebrato qui al Soundcheck durante questa settimana e che si risente nelle loro composizioni e nelle loro produzioni discografiche. Diamo il via quindi al soundcheck di oggi con Aloe Black dall'album di successo Lift Your Spirit, per questo signore americano che l'America l'ha trovata in Europa. Il brano si intitola The Man, e poi Anthony Hamilton, songwriter che si è aggiudicato un Grammy Award quest'anno come migliore performance R&B. Il brano si intitola Mad, tratto da Back to Love. Sono Aloe Black e Anthony Hamilton al soundcheck di Radio 24. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, yeah. Go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, yeah. Go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Ladies and gentlemen, you're listening to Soundcheck. Puntata musicalmente più leggera, quella di oggi qui al nostro soundcheck su Radio 24. Le voci erano quelle di Aloe Black con The Man e poi quella di Anthony Hamilton con Mad. Facciamo una breve pausa e torniamo con il sound funk raffinatissimo di Jeff Bradshaw con Jill Scott. Soundcheck. Il suono della musica. Composizione del trombonista Jeff Bradshaw, probabilmente dedicata al suo strumento, il trombone, intitolata Slide, con la partecipazione della vocalist e songwriter Jill Scott qui al soundcheck di Radio 24. Ancora una volta un esempio di come gli artisti di oggi riescono a coniugare il loro background tipicamente jazz con i suoni dell'R&B e del funk di oggi. E ci prova anche un artista non molto conosciuto da noi, ma negli Stati Uniti si sta facendo facendo largo non solo nell'ambiente jazzistico, ma soprattutto come guest star di concerti importanti, per esempio di star come Robert Glasper con i suoi Experiment, ma ha lavorato anche con Jay-Z, ha lavorato per Beyoncé, Music Soul Child. Questo ragazzo si chiama Bilal Said Oliver, nato a Germantown, vicino Philadelphia, lì in Pennsylvania, dove di notte seguiva il suo papà in giro per jazz club. Il papà, grande appassionato di jazz, lo ha coinvolto nella sua passione e quindi lo ha iscritto alla famosa New School for Jazz and Contemporary Music di New York, dove Bilal si diploma in canto e composizione. Pensate che Bilal ha anche la passione per l'opera e può cantare in 7 lingue, e forse proprio per questo motivo, perché ha una grande preparazione musicale e anche una grande versatilità da musicista curioso qual è, che viene coinvolto in situazioni musicali assolutamente diverse, e quindi spazia dall'R&B al jazz al soul e approda così a un nuovo album intitolato Love Surreal, sound tipicamente ipnotico e contemporary R&B, quello di Bilal, che gustiamo in questa sua composizione intitolata Winning Hand. Bilal per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. E c'è un'altra storia a lieto fine che vorrei raccontarvi, che è quella che ha come protagonista una giovanissima cantante chitarrista autodidatta malese chiamata Yunalis Zarai, in arte Yuna. Sì, oggi Yuna è una piccola stella nascente del pop internazionale, ma quando aveva 14 anni nella sua piccola città di Kedah studiava, andava a scuola e contemporaneamente strimpellava la sua chitarra, scriveva le sue canzoncine, che naturalmente, come fanno molti artisti, giovani artisti di oggi, espone nella sua pagina di MySpace, che è il portale più utilizzato dai giovani artisti emergenti. E in pochissimo tempo Yuna colleziona addirittura 1 milione di visitatori che ascoltano le sue composizioni, e questa cosa non può sfuggire all'attenzione di una piccola etichetta indipendente di indie pop lì in Malesia, che la mette sotto contratto, le produce il primo disco con il quale si accaparra addirittura ben 4 trofei sulle 5 nomination ottenute dalla Anugerah Industry Music, che potremmo considerare l'equivalente dei Grammy Award lì in Malesia. E così, con questo piccolo successo, Yuna inizia la sua carriera di performer e interprete in Malesia, ma nel 2011 approda a MTV, e a MTV si fa notare, e quindi di lì a poco, con il successo anche televisivo, con questa esposizione mediatica più importante, la giovane Yuna inizia la sua carriera e oggi può vantare anche fra i brani una produzione legata al meraviglioso Pharrell Williams, del quale abbiamo più volte parlato e che ascolteremo ancora una volta dal nuovo album fra pochissimo. Ma parliamo di Yuna, che approda con un nuovo album intitolato Nocturnal, e per presentarvi l'arte di questa ragazza ho scelto una composizione assolutamente pop ma molto ben realizzata, che si intitola Lights and Camera. Si chiama Yuna per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Da dal sound super pop della giovane Yuna passiamo all'album di successo del grande Pharrell Williams, nuova fatica per lui. L'album si intitola Girl e qui al soundcheck incontra la voce di un'altra superstar come Alicia Keys in questo brano molto ben realizzato, Know Who You Are. Così chiudiamo questa settimana del nostro soundcheck anticipandovi che torneremo in onda sabato 12 aprile. Sì, prendiamo una settimana di pausa per dare il via alla nuova stagione primavera-estate della nostra Prova del Suono. Infatti torneremo con Soundcheck Weekend, 2 ore di grande musica, 2 ore filate di grande musica il sabato a partire dalle 19 subito dopo il GR, e poi un doppio appuntamento la domenica dalle 15.05 alle 16, una seconda parte che inizierà dopo il GR delle 19. Ecco, questa sarà la nuova collocazione del nostro programma di musica, che abbandona la fascia quotidiana con l'appuntamento classico delle 15.20 per traslocare al weekend. Quindi ci ritroviamo sempre qui su Radio 24 sabato 12 aprile a partire dalle 19 per dare il via alla nuova edizione di Soundcheck, Soundcheck Weekend. E quindi a tutti voi buona giornata e buona musica da Gegé Telesforo. Soundcheck, il suono della musica.